get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, ciao, ciao a tutte, benvenute, state per ascoltare la nostra 116esima trasmissione. Vi auguro un buon ascolto Caterina, che sono io, e Claudia. Salutiamo tutte coloro che ci stanno ascoltando e che riescono a prendere il segnale di Radio Onda Rossa, ma anche a tutte quelle che ci ascoltano via internet o che sono sparse un po' per tutta l'Italia. Per farlo ricordo che si deve accedere al nostro sito, che è www.clrbp.it, e cliccare sull'icona in diretta. Gli argomenti della trasmissione di oggi sono legati alle condizioni di vita alle quali le lesbiche sono state costrette nel corso degli anni. Claudia ci parlerà del trattamento che hanno subito le lesbiche durante il nazismo. Io invece vi leggerò un contributo che ci ha inviato una nostra ascoltatrice. Nel farlo mi vivrò sicuramente delle sensazioni contrastanti, perché se da una parte sono felice del fatto che questo contributo ci sia arrivato, cioè che una donna abbia deciso di collaborare con noi inviandoci un pezzo della sua vita, dall'altra c'è il rammarico nel constatare che ancora oggi alcune lesbiche sono costrette a vivere esperienze durissime. La forza dimostrata da questa donna e dalla sua compagna mi conforta, perché è la dimostrazione che al di là di qualunque circostanza esterna, di qualunque costrizione, la loro determinazione, il loro desiderio e la loro convinzione si sono trasformate in volontà di rimanere se stesse. Bene, non vi rubo altro tempo. E comunque volevo dedicare, insieme a tutto il coordinamento, a queste due meravigliose donne che ci hanno mandato il contributo, una canzone di Oci Curiel dal brano Ellas Nosotras. Soltanto un attimo che preparo il CD e poi la canzone è tutta per loro. Las que no pueden un beso presentar. la Bibbia incontrarás. Ella, la que no importando mitos y relatos seguirá, descubriendo sus deseos en la libertad sexual. Las que descifraron cuando le dieron a luz, se opuso al rosado y lo mezcló con azul. Siguen hoy siempre fletando sus vidas, transformando el mundo para así avanzar. Hacen de esta vida más que una comedia, una historia llena de diversidad. A ellas les brindo más que un homenaje por su posición, más que radical. A ellas me sumo, las sigo, me asumo, pretendo con ellas revolucionar. A ellas escribo esta canción. Les entrego así flores de amor. A ellas les escribo esta canción. Les entrego así flores de amor. Buonasera a tutte, ben trovate da Claudia. E iniziamo con un articolo tratto dal sito Holocaustos, nazismo e lesbismo. Il titolo è: vi fu una persecuzione del lesbismo? Allora, l'articolo 175 del codice criminale del Reich, che condannava l'omosessualità maschile, non prendeva in considerazione quella femminile. Il lesbismo non era considerato dalle autorità una minaccia o un sabotaggio sociosessuale dei fondamenti del Terzo Reich. Perciò, a patto che non dessero pubblico scandalo, le lesbiche non furono formalmente perseguitate. D'altro canto, la condizione femminile nella Germania pre-nazista era tale che alle donne era vietato aderire a partiti ed organizzazioni politiche. Fu per questo che, anche negli anni nei quali il movimento omosessuale ebbe maggiore forza, le lesbiche si limitarono a frequentare i locali della Berlino omosessuale senza esporsi ad un impegno politico palese. Ciò nonostante, alcuni luoghi di ritrovo lesbici a Berlino, come il Dorian Gray e il Flauto Magico, divennero luoghi nei quali l'omosessualità femminile incominciò a organizzarsi. Spuntarono opere letterarie che fecero un certo scalpore, come Amore femminile e L'amante donna. Già nel 28, a causa della reazione conservatrice, gli spazi di libertà per le lesbiche vennero a restringersi. Con l'avvento del nazismo, anche questi limitati spazi di libertà scomparvero. La censura si abbatté sulle pubblicazioni immorali. L'amante donna venne messo all'indice in base alla legge sulla protezione della gioventù dalle pubblicazioni oscene. Vi furono richieste in Parlamento di una legge che perseguisse esplicitamente il lesbismo e numerosi attacchi sulla stampa vennero dal più impegnato conservatore dell'epoca su questo fronte, Erhard Eberhard, che sostenne che il movimento per i diritti civili delle donne era un movimento di facciata per promuovere la corruzione dei costumi femminili in Germania. Quando nel 1933 i nazisti arrivarono al potere, proprio in virtù della loro convinzione che la donna fosse inferiore all'uomo, si disinteressarono al problema. Ciò non significò che essere lesbiche fosse consentito come stile di vita. All'indomani della presa del potere, i nazisti chiusero tutti i locali di ritrovo e crearono un clima di costante timore, incoraggiando le azioni di polizia e le denunce anonime contro le lesbiche. Bastava la lettera anonima di un vicino di casa per ritrovare alla propria porta la Gestapo. Molte lesbiche cambiarono città per rompere i legami con i circoli che avevano frequentato. Altre si sposarono con omosessuali maschi per ridurre la loro visibilità. Ciò nonostante, i nazisti continuarono a sorvegliare con particolare attenzione le lesbiche. Se anche l'omosessualità femminile non era considerata un reato esplicitamente vietato dalla legge, le lesbiche vennero ugualmente perseguitate non in quanto tali, ma in quanto asociali. Così ufficialmente non vi furono arresti per lesbismo, ma per comportamenti personali contrari all'ideologia nazista. Nei campi di concentramento le lesbiche non furono catalogate come omosessuali, ma come pervertite alla stessa stregua delle prostitute. Questa distinzione era marcata dal fatto che per essere nei campi vi fu l'obbligo di indossare il triangolo nero, simbolo delle prostitute. Si deve aggiungere che la politica del lavoro nazista danneggiò ulteriormente le lesbiche. Poiché il lavoro femminile era guardato con sospetto e i posti di responsabilità negati alle donne, le lesbiche, per lo più non coniugate, si trovarono a dover combattere con drammatici problemi economici. La mancata persecuzione esplicita del lesbismo non toglie nulla alla repressione generalizzata che queste persone subirono e dal clima di paura nel quale vissero per tutta la durata del regime. E a questo riguardo leggiamo il caso Sherman. Annie Sherman era nata il 19 febbraio 1912 a Francoforte sul Meno, in Germania. Di origine ebrea, era la prima di tre figlie. Dopo il 1938 venne imposto alle donne ebree di far apporre sui propri documenti un secondo nome distintivo che per tutte doveva essere Sara. Annie, all'epoca 24enne commessa in un negozio, non faceva mistero della propria omosessualità e mostrava un atteggiamento non conforme alla legislazione repressiva nazista. Non si adeguò all'ordine di apporre il nome Sara sui documenti e continuò la sua vita come sempre, frequentando laddove possibile i luoghi di ritrovo illegali delle lesbiche di Francoforte. Nel 1940 venne arrestata e deportata al campo di concentramento femminile di Ravensbrück. Sul dorso della fotografia segnaletica che si vede nel sito, il funzionario nazista scrisse: Jenny Sara Sherman, nata il 19 febbraio 1912 a Francoforte, non coniugata, commessa di negozio, lesbica licenziosa, frequentatrice di bar omosessuali, non ha adottato il nome Sara. Abolita ebrea. Dopo due anni di campo di concentramento, Annie morì nella camera a gas di Berneberg nel 1942. Il caso di Annie Sherman mostra tutta la difficoltà nel registrare e documentare la persecuzione delle lesbiche. Ufficialmente Annie era ebrea e questo sarebbe stato sufficiente per condannarla a morte in un campo. Tuttavia le autorità tedesche sottolineano il suo essere omosessuale come un ulteriore aggravante. Segnale questo di come l'attenzione e la vigilanza sull'omosessualità femminile fosse decisa e costante. E adesso ascoltiamo Lynn Rimes, I Need You. There's a freedom in your arms that carries me through. the love that rescues me when the cold winds rage. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to fire. Torniamo in diretta e ai giorni nostri con il contributo che le due donne ci hanno mandato. E il coraggio di quella donna che ha avuto la forza di non farsi scrivere, di non scrivere almeno volontariamente sul documento il nome che la contraddistingueva, mi fa pensare al coraggio di queste due donne. Sentite che cosa ci scrivono. Il coraggio di andar via, lontano, via dalle fredde mura di una città ostile e ipocrita, programmando il giusto modo di vivere, una libertà interiore, lasciando alle spalle una vita triste, disperata, un passato chiuso a chiave in un dimenticatoio di cose inutili, una vita diversa, nuova, forse migliore. Noi che proveniamo dalla stessa famiglia abbiamo creato uno scandalo, lasciando tutti esterrefatti e disgustati a dir poco. Noi, cugine di secondo grado, in un amore cresciuto dentro inconsciamente già dalla nostra infanzia, andando pian piano avanti su due binari diversi che finalmente, fatalmente, un giorno si sono incontrati. Un'infanzia molto simile. Tutte e due ad un anno e poco più abbiamo perso un genitore. Lei il padre, io la madre, che ha cessato vigliaccamente di vivere a 27 anni perché non ha avuto il coraggio di affrontare il mondo, lasciandomi sola con mio padre che da subito mi ha imposto una nuova madre cercando in qualche modo di sopprimere il trauma. Sono cresciuta così, sicuramente molto in fretta e senza mai confidarmi con nessuno, chiusa e ribelle come contrasto. Lei invece, un po' più fortunata, ha avuto tante sorelle e una madre che per crescerle ha dovuto sempre lavorare, anche se alla fine i soldi non bastavano mai. Poi un giorno l'ho rivista e da allora non l'ho più lasciata. Un amore vissuto al buio, di nascosto in ogni caso. Perché frattanto mi ero sposata, un matrimonio riparatore, dovuto a quella stupida mentalità solitamente meridionale. La mia età di 19 anni di certo non mi ha aiutato ad impormi alla mia famiglia, dichiarandomi meravigliosamente lesbica, ed ho preferito ingenuamente sposarmi, perché così bisognava fare, per essere uguale agli altri. Mi autoviolentavo offrendomi a quell'uomo viscido e peloso, nessun rispetto per me, non mi volevo bene. Per fortuna però la mia prigione è durata poco. 4 mesi dopo, in una serata piovosa, ho preso le mie cose e sono finalmente scappata da quelle ruvide mani che tante volte hanno percorso il mio corpo e sono giunta a lei, la mia salvezza, con un bambino di pochi giorni che forse avrebbe dovuto avere una vita diversa, stupidamente uguale a questa banale conformità sociale. I primi tempi sono stati i più duri. Lei era ancora con sua madre ed io sbattuta da un posto all'altro perché mio padre mi ha categoricamente proibito di rientrare anche solo per una notte a casa sua perché potevo disturbare la sua quiete familiare, ignaro del mio lesbismo. Mi ha sistemato in una stanzetta a casa di mia nonna. E così ho iniziato a lavorare, per poter dare un sorriso in più al mio bambino e perché avevo in mente di vivere insieme a lei un giorno. Non ho mai chiesto soldi perché ho il mio orgoglio, non ho mai voluto dipendere da nessuno, semplicemente perché poi il fatto di prenderli mi avrebbe creato una specie di dipendenza all'uomo. I familiari non captavano ancora nulla perché io tenevo ancora stretto il mio segreto. Ho mascherato sempre, da quando avevo 5 anni, da quando mi innamoravo delle ragazzine della mia età. Ho mascherato fino all'altare. Poi ho detto basta. Basta a questa tortura, perché è stata una violenza fisica e psicologica. Ho tolto il mio chador perché ho il mio diritto di vivere naturalmente e liberamente la mia sessualità. Non si può mentire a se stesse. Ci è costato caro, carissimo. Siamo state ricattate moralmente e fisicamente, derise, colpevolizzate da parte di tutti quelli che ci circondavano, compreso lui, che con tutta la sua famiglia non è riuscito a redimermi. Il coraggio di amarci in una città piccolissima, conformista ad hoc per l'eccellenza, è stata dura. Abbiamo perso tutto, famiglia ed amici. Abbiamo preso il coraggio a 2 mani e siamo andate via. Io non ho avvisato nessuno, ma chi avrei dovuto salutare? Per loro è stata una vera liberazione, un po' come lavarsi la faccia. Ho solo lei. Lei ha solo me. Questo è importante. La nostra porta si è chiusa. Non hanno mai voluto capirci. Noi non vogliamo più capire loro. Le nostre strade si sono divise. Ne è valsa la pena. Non torneremo più a ripercorrere quelle vie. Ora guardo in avanti. Non mi soffermerò neanche un istante a pensare a quegli anni. Una ferita che piano piano si rimarginerà un giorno molto lontano, chissà, dimenticherò davvero tutto, o forse in un'altra vita. Ho voluto raccontare questo perché nella vita non bisogna mai abbandonare le redini, mai. Ci vuole coraggio e tutti ne hanno, anche se non sempre sappiamo d'averlo. È retorica? Non dimentichiamolo mai. Ognuno ha la libertà di avere se stessa. Io ho ritrovato me. Ho commesso molti errori, ma ora mi voglio bene. Ho sofferto molto, più di quanto abbia scritto qui, perché non si può riassumere il tutto in poche pagine. Del resto, come tante giovani lesbiche che non prendono ancora coscienza di sé, può succedere che nella vita continueranno ad esserci altri eventi poco piacevoli, ma ora sono pronta ad affrontarli. Sono pronta ad affrontare senza subire ricatti, violenze e colpe. Non permetterò più a nessuna bestia di alzare le mani su di me, né sulla mia compagna. È un dolore sordo assistere alla violenza sulla donna, specie se quella è la tua. Non puoi far nulla in quel momento perché lui ha il potere, perché lui ha un corpo che è il doppio del tuo. E così ti ribelli, hai voglia di far sparire tutti gli uomini dalla faccia della terra, ma è un'impresa. L'importante è non lasciare finestre aperte, altrimenti quegli insetti ti disturbano. Adesso no, non accadrà più. È una promessa. Una promessa che faccio a me stessa e a lei, alla mia dolce fanciulla. Bene, io dedico a queste due stupende donne un'altra canzone, permettetemelo. È una canzone abbastanza famosa, però scritta in un modo un po' particolare, spero le piaccia e vi piaccia. A proposito, ma i trillini oggi che fine hanno fatto? Li aspettiamo, cioè poi ci rimaniamo male se non li fate. We're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain, eat to reach the highest peak, but it wouldn't hurt me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it wouldn't hurt me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Dancing and dancing and dancing and dancing and dancing. io ringrazio per i numerosissimi trillini, non so se è per salutare anche voi tramite noi le donne che ci hanno mandato questo contributo, che ci hanno dato a tutte quante un po' di forza, o se piaceva il brano musicale. Io mi auguro tutte e due le cose. Comunque volevo leggere adesso anche una poesia che ci è arrivata insieme alla storia. Io non so quale delle due l'abbia scritta, so che a me è piaciuta molto, per cui non sono una lettrice di poesie, abbiate bontà di prendervela così, va bene? Leggo, si intitola Donna. Amante occulto di sole donne, vogliate voi rispondermi a vita? Da sempre aggrovigliate lì nell'angolo buio in un pensiero stanco che scioglie i colori in lacrime nere e poi vanno giù per il mantello dell'infinita notte perché il dolore non ha tempo, il denaro sì. E così neppur fiato di dignità sotto la larva d'un vulcano che scende a fiocchi su di un viso già ricado di schegge e di silenzio del cuore che ubbidisce alla sua pena. Ed io non saprò mai perché. Perché non c'è dea solitaria che si ascolti indossando ali giganti per cavalcare l'oro della mia terra. Fra tante lune che giacciono in mare, restano segnati profondi specchi di commiserazione. Oh, quanto mi duole sorreggere il passo quasi fosse estranea a me. Donna, mia brillante adorazione, mia spassionata colpa universale, affinché quella spada affilata voglia essere ancora futuro per poche, brama di tante, donna, ti imploro, alla sola voce dell'anima. Appuntamenti. Allora, gli appuntamenti, uno che ci interessa in modo particolare è il nostro consueto appuntamento di Les Bollywood che si farà giovedì 20 febbraio e proietteremo un film molto carino dal titolo Women. È un narrativo americano. Il film si articola in tre distinti episodi ambientati in anni diversi e accomunati dal fatto di svolgersi nella stessa abitazione. Credo che il titolo originale fosse quello Se queste mura potessero parlare, un titolo del genere. In italiano l'hanno chiamato Women, va bene così. Dunque, il primo è ambientato nel 61, due anziane donne omosessuali vivono da anni nella stessa villetta monofamiliare. Quando una delle due muore, l'altra si vede portare via la casa dai parenti prossimi della sua ex convivente, nonostante avesse anch'ella contribuito all'acquisto dell'immobile. Il secondo è del 72, dove un gruppo di lesbiche politicizzati vive con rabbiosa amarezza la propria esclusione dal collettivo femminista dell'università, e l'altra invece è ambientata nel 2000 e parla di due giovani donne lesbiche che riescono a coronare il loro sogno di avere un figlio tramite l'inseminazione artificiale. Io ricordo che l'ingresso è riservato alle sole donne e per non fare l'errore dell'altra volta, che per me è scontato ormai Les Bollywood che si fa lì al Buon Pastore, ridico l'indirizzo, che è via San Francesco di Sales 1B. Ricordo, la proiezione inizierà alle 21:30, il film si intitola Women e è riservato alle sole donne. E un altro appuntamento a cui teniamo moltissimo, sempre organizzato da noi, Coordinamento Lesbiche Romane, in collaborazione col CLIC, Collegamento Lesbiche Italiani, e Libreria Zora Nia Houston, si terrà sabato 22 febbraio ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne questa volta via San Francesco di Sales 1A, sala convegni, piano terra, sempre ingresso riservato alle sole donne. Ed è un incontro con Simonetta Spinelli, mitica, sullo scandalo che si intitola Lo scandalo Wittig. Wittig, scusate. Ricordiamo insieme Monique Wittig, scomparsa recentemente, una delle più grandi teoriche lesbiche radicali, i cui scritti hanno contribuito alla crescita politica del movimento lesbico e ancora oggi rappresentano il punto di riferimento teorico per molte lesbiche. Che cos'è una donna? Panico, allarme generale per una difesa attiva. Francamente è un problema che le lesbiche non hanno a causa di un cambiamento di prospettiva, e sarebbe scorretto dire che le lesbiche si associano, fanno l'amore, vivono con le donne, perché donna ha un significato solo nei sistemi eterosessuali di pensiero e nei sistemi economici eterosessuali. Le lesbiche non sono donne, non è più una donna chi non è in relazione di dipendenza personale con un uomo. Tratto da The Straight Mean di Monique Wittig. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo tutte sabato 22 febbraio ore 18, questa volta all'altro ingresso, via San Francesco di Sales 1A. Intervenite numerose. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Anche Les Bollywood. Per informazioni potete contattarci alla nostra email contatti@clrbp.it oppure il sito www.clrbp.it e vabbè, passiamo all'altro argomento, all'altro appuntamento importante che si terrà a Bologna dal 27 febbraio al 2 marzo 2003 e che è il Festival Immaginaria, amore tra donne sul grande schermo. In gara oltre 60 film provenienti da 16 paesi, prima volta in cartellone per Taiwan, Slovenia e Bielorussia. Oltre 60 film, di cui 15 prime europee e 6 mondiali. Così si presenta l'11ª edizione di Immaginaria, il Festival Internazionale del Cinema Lesbico, che si terrà a Bologna nelle sale del Cinema Nosadella, via Nosadella 21, dal 27 febbraio al 2 marzo. Si aprirà giovedì 27 alle ore 19 con un buffet di benvenuto, seguito alle 21 dall'inaugurazione ufficiale e dalla proiezione di un film a sorpresa. Venerdì 28 febbraio le proiezioni e gli incontri con le registe si terranno dalle ore 14 alle 22 in sala 1 e sala 2, con ingresso ogni due ore, mentre in uno spazio apposito allestito al primo piano alle ore 17.30 e 19.30 si terranno i dibattiti. Tutte le informazioni sul festival e i suoi contenuti sono già visibili online al sito www.immaginaria.org. Per contatti è possibile rivolgersi al numero 051 6494 276 o inviare un'email all'indirizzo info@immaginaria.org. E indovinate un po', vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 per farci i trillini e per dirci che siamo bravissime fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista al Buon Pastore ogni mercoledì a partire dalle ore 21. Potete contattarci al numero 06 68 64 201, questo è un telefono fax, segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo anche la nostra email che è contatti@clrbp.it e il nostro sito web che è www.clrbp.it. Ora, per darvi modo di pensare, concludiamo questa nostra trasmissione di oggi con un brano di Alain Morissette dal titolo Things. Tra poco parte la sigla, ma non ve ne andate, eh? Noi rimaniamo insieme fino alle 10. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Beh, non ve ne andate adesso, eh? Sentite che vi metto. Questa è una canzone che a me piace tantissimo. Io vi devo confessare una cosa: siccome non fumo, ogni tanto mi piacerebbe farmi una canna, però siccome a me basterebbe tutto sommato una Marlboro e poi l'effetto non sarebbe lo stesso, allora per sballare ogni tanto mi metto delle canzoni che mi piacciono. Questa è una di quelle. Thank you. you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. E allora, non vi sembrerà vero che oggi ci sono io e non c'è un disco di Gianna Nannini? L'ho menata, prima di venire qua gli ho fatto un ultimatum, ho detto se vuoi fare la trasmissione con me non portare Gianna Nannini. Approfittatene e fate i trillini adesso perché la prossima volta mi rimetterò in pari. Si vendica, sicuramente. E allora ancora Caterina, e lei la disc jockey. Sì, io sto litigando come al solito con tutti i CD perché non sono così brava come sembra. Dunque, io dopo aver ascoltato Janis Joplin con il brano Summertime sto un po' in estasi, però per rimettere un po' i piedi per terra, una cosa un po' forse meno pretenziosa ma altrettanto bella e che ha fatto sognare tante donne della mia generazione, e chi sentirà questa canzone capirà di quale età sto parlando, e quindi niente, ascoltiamoci adesso una bellissima canzone. Ho sbagliato, eccola. E tu, oh, e vai. Lei, vorrei, non so, lei, no, lei, ma nessun pensiero stupendo. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Ah, e tu, amore, e lei, amore, per lei, vorrei. Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Ah, pensiero stupendo, lascio un po' più strisciato. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Ah, e tu, oh, e lei, amor, oh, lei, lei, lei, adesso sa che lei, pensiero stupendo. Lascio un poco strisciando, stupo tra chi trattare di bisogno e d'amore, meglio non dire. È come non dare ragione a Patty Brown, è o non è un pensiero stupendo? Allora, il nostro tempo sta quasi per scadere, giusto il tempo di salutarvi, darvi appuntamento a giovedì e a sabato con i nostri due appuntamenti molto importanti. E per chiudere questa puntata, questa trasmissione, un'ultima dedica. Oggi mi sento dedicarola, come si dice, forse perché il mio amore sta male, e allora questa volta, dopo tante dediche, ne gliene voglio fare una anche a lei, che si intitola Sweet Baby e la cantano Erika Badu e Macy Gray. Su queste note il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Un abbraccio a tutte, vi aspettiamo giovedì e sabato. Ciao a tutte da Claudia. Ciao. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. Love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet.